Buonasera a tutti e tutte, non avevo acceso i microfoni, siamo qui stasera per parlare di Notturno Sorversivo, una raccolta fotografica che racconta il movimento a Catania, gli spazi occupati, la vita di chi si ribella in Sicilia. Io personalmente super contento, questo non l'avevo ancora detto, non ho parenti in Sicilia ma ho sempre frequentato la Sicilia, paese, posto, regione meravigliosa, basta, mi taccio che è meglio. Prego, non so come dovete fare, delle domande, delle presentazioni, delle cose, fate come cazzo vi pare. Prego. Grazie Gulli. Allora, siccome accennava Gulli, non so se poi sia venuto riregistrato, è un evento, diciamo, che rientra in quelli di collaterali di promozione, di diffusione, di pubblicizzazione dell'Università Popolare. E quindi tutto è ricavato di stasera di ciò che berrete e mangiate, ed eventualmente se qualcuno vuole acquistare anche qualche foto andrà a beneficio, le foto in parte, andrà a beneficio dell'Università Popolare, che è un progetto che è nato quest'anno sulla scia di incontri che avevamo fatto già l'anno scorso. Quest'anno si è strutturato di più e siamo pronti a lanciare anche il secondo anno, cioè da settembre partiremo col secondo anno con l'Università Popolare. Bene. Grazie di essere qui. La componente siciliana è molto presente e in forze, diciamo. Pure troppo. E quindi, bene, l'occasione è questa delle mostre, della mostra fotografica di Carmelo. Ma diciamo che appunto il punto di partenza di questa sera, perché poi la mostra resterà qui qualche giorno, le foto resteranno appese qui qualche giorno e quindi anche altri che vorranno vederle potranno vederle nei prossimi giorni, ma è un buono spunto secondo me per parlare un po' di ciò che accade o di ciò che non accade a Catania, dell'esperienza di spazi occupati, di manifestazioni, di vita notturna, insomma quella che in un termine, diciamo, che è un grande contenitore che può voler dire tutto e niente, che chiamiamola controcultura, chiamiamola in questo modo, controcultura catanese, e quindi potremmo parlare anche di questo. Chi Catania la vive, l'ha vissuta in parte, la vive a sprazzi, continua a viverla perché ci abita, come il nostro buon Edoardo Monteforte, che è appunto qui con noi e che è interno alla gestione e collaborazione del Teatro Coppola, che è il teatro occupato sin dal 2011, dal dicembre del 2011. C'è anche tra il pubblico un altro, diciamo, non so come definire, un supereroe al contrario, Emiliano Cinquerui, anche lui di giorno con la luce del sole, avvocato penalista, di notte vampiro. Cioè, vampiro. Di notte vampiro. Fondamentalmente uguale. di emozioni. Sarei di emozioni. La mostra, insomma, la vedete tutta attorno a noi, ci sono delle foto anche lì vicino alle scale, quindi se qualcuno non avesse avuto modo di vederle, poi può vederle anche là dietro. E come vedete sono quasi tutte foto fatte di notte, per questo anche il titolo che abbiamo dato alla mostra, Notturno Sovversivo. E scorrendole magari vi siete potuti accorgere che abbiamo deciso di collocarle seguendo uno schema che prevede all'inizio le manifestazioni. Questa parte riguarda gli spazi propriamente occupati, cioè il Teatro Coppola e la Palestra Lupo, di cui magari parleremo. Qui dietro abbiamo delle foto che a partire dalla statua di Vincenzo Bellini, uno, diciamo, dei numi tutelari almeno per la musica di Catania, e del teatro Massimo Vincenzo Bellini dentro e fuori, no? Abbiamo avuto poi, tra l'altro, per inciso, perché abbiamo avuto la possibilità di vedere dietro le quinte le ballerine, perché un nostro amico organizzava i balletti, insomma abbiamo avuto questa possibilità e quindi magari almeno ci racconterà qualche aneddoto a riguardo, se vuole, se la discussione ci porterà lì. E poi ci sono altre foto invece della vita notturna catanese, un po' randomiche, diciamo, cioè poi magari almeno ci dirà come e perché nascono le sue foto. Quindi diciamo che il percorso fotografico è questo. Io partirei proprio da qui, cioè del farti da te, poi magari Edoardo ci dirà altre cose, cioè del tuo rapporto da noi che catanesi non siamo, perché siamo in un paese di un'altra provincia, manco siamo nella provincia di Enna, da noi che catanesi non siamo, quindi il tuo rapporto con Catania, se vuoi, sia a livello esistenziale, ma che si traduce in un rapporto fotografico fondamentalmente. Forse hai fatto foto più a Catania che altrove, diciamo. Quindi se vuoi dirci qualcosa a questo riguardo. Salve a tutti, ringrazio i ragazzi di ZAM per questa occasione, e i ragazzi e le ragazze di ZAM per questa occasione. Allora, premetto che almeno metà delle foto che vedete qui, sia di giorno che di notte, soprattutto di notte, le ho scattate quando ero in stato di alterazione alcolica, perché è una cosa che perché è una cosa che è scindibile, è inscindibile da, non lo so, dal mio rapporto con la fotografia notturna a Catania in generale, sia per le situazioni in cui mi trovo, posti occupati, concerti, manifestazioni, foto randomiche, quartieracci e quartierini, sia perché è mia natura così, forse fotografare in parte, non lo so, non del tutto, non sono così tanto alcolizzato, ma almeno in parte, forse sì, dovrei darci un taglio. Ma no, niente, allora, il mio rapporto con Catania, con la vita notturna catanese, in realtà è da un bel po' di anni che prosegue. Fondamentalmente molti mi dicono: ma perché non ti trasferisci a Catania, sei sempre qui? Quando mi vedono, che almeno 2-3 volte a settimana è una città che mi manca, e quindi è una città che preferisco frequentare e vivere, e perché mi dà occasione di conoscere e di vedere cose e persone davvero molto molto interessanti. Allora, mi tocca precisare anche una cosa: io non sono un fotografo da progetto. Ne parlavo ieri con alcuni amici, cioè queste foto che vedete sono state fatte negli anni, cioè dal 2015, 2016, 2018 e così via. Il fatto che molte foto siano attinenti è un puro caso, perché io tendo a fotografare quello che mi colpisce. Pochissimo, fotografo pochissimo, questa è una cosa che mi è derivata, credo, sia dai miei maestri di corso fotografico quando ero ancora un novellino, forse lo sono ancora un novellino, non vorrei passare per presuntuoso, sia per come ho iniziato a conoscere la fotografia con mio padre, che mi spiegava come utilizzare la macchina fotografica a rullino, quindi 24-36 foto e poi basta, e quindi erano foto molto selezionate, ogni singolo scatto deve essere molto molto attento per evitare di fare cafonerie. Non sono molto bravo a parlare ed esprimere, forse con le foto ci riesco meglio. È una città che mi ha sempre coinvolto, da quando ho iniziato a frequentarla dall'età universitaria fino a oggi, e penso anche fino a domani, fino in futuro. No, fino a futuro, domani metaforico, fino in futuro. Domani sogno ancora. Sì, e quindi ci è sembrato, grazie anche ad alcuni amici di Zamma, Aurora, Cateno, ci è sembrato opportuno, visto anche i collegamenti fra Catania e questo posto, Zamma, e questi posti occupati a Milano, ci è sembrato opportuno anche trovare un collegamento fra queste due realtà. Sotto questo punto di vista Catania è abbastanza attiva, perché non sono, ricordiamo, Teatro Coppola e la Lupo non sono gli unici posti autogestiti occupati. Ad esempio ci viene, primo fra tutti, Officina Rebelde, che è proprio storica di Catania. Non vedete foto qui perché non la frequento troppo, però anche lì è un posto molto molto molto importante, proprio in centro storico, come un po' la Palestra Lupa e il Teatro Coppola sono tutti in centro storico. Perché a Catania? Non lo so. Catania è una città molto molto divertente, sotto tantissimi punti di vista. Musicale, culturale, visivo, emozionale, mi ha regalato cose che sembra strano dirlo, che io non pensavo potessi ottenere da una città, perché sono un ragazzetto di paese, lì in collina, seppur molto vicino a Catania, sono stato, diciamo così, un po' baciato da queste situazioni catanesi, grazie alla mia passione fotografica spero di trasmettere con queste foto qualcosa di quella città. E non lo so che altro dire. Fondamentalmente questo è un po' un riassunto di una visione generale di come vedo Catania tramite le foto. Per chi può vederle, forse parlano meglio le foto di me, sicuramente. Quindi io riterrei opportuno che magari, se avete qualche domanda dopo, di farmela, così magari vi rispondo. E ora adesso vi passo la parola a Edoardo Monteforte, che ci parlerà in maniera molto più concreta, perché poi ne è all'interno anche del Teatro Coppola, che è una realtà bellissima, secondo me. Così, no. Uno, due. L'amore non è bello se. Vabbè, buonasera a tutte e tutti. Ringrazio Aurora e Cateno per l'invito. Oggi io... Si ripetono, vabbè. Oggi sostanzialmente quello di cui volevo parlare io è sostanzialmente il racconto di un'esperienza, che è l'esperienza, insomma, del Coppola come occupazione, che è un'esperienza che nasce principalmente dall'esigenza di trovare uno spazio dove potersi esibire culturalmente. Il Coppola nasce nel 2011 a dicembre insieme a un collettivo che si chiamava L'Arsenale, che era un collettivo esteso in tutta Italia lamentando la mancanza di spazi per poter lavorare. Sostanzialmente la tattica era molto semplice: si andava a occupare un posto, si facevano tutta una serie di eventi culturali, dopodiché al momento dello sgombero, che è parte di un'esperienza comunque di occupazione, veniva occupato un altro posto successivamente per dimostrare appunto che gli spazi non mancavano. Molti spazi in Italia sono durati mesi, altri sono durati giorni, il nostro fortunatamente è durato 14 anni, quindi su questo devo dire siamo molto fortunati. Come ci si esprime all'interno di una città? Il Coppola si esprime in maniera molto semplice, essendo che comunque l'assemblea è aperta, viene chiamato Teatro Coppola Teatro dei Cittadini, perché le assemblee sono pubbliche, vengono fatte in maniera molto aperta tramite le proposte. Principalmente il senso politico si esprime tramite la programmazione che viene fatta all'interno dello spazio. Per quanto riguarda il rapporto con Catania, può risultare abbastanza difficile, nella misura in cui Catania è una città dove da molti anni si sta assistendo a un processo di gentrificazione molto forzata, cioè un processo che mira a una turistificazione molto pesante, dove chiaramente è data tutta dall'uso e consumo del turista, e rimanere nell'ottica di uno spazio dove non si rimane solamente un possibile ventificio, ma uno spazio dove portare avanti un pensiero, come dire, controculturale, risulta essere un po' una sfida, soprattutto quando sono spazi pienamente in centro città, eccetera, eccetera. Riguardo alla questione di altri spazi occupati, come nelle foto per esempio di Carmelo, c'è anche la Lupo. La Lupo, per esempio, è un'esperienza di occupazione un po' diversa, cioè nasce principalmente come occupazione di questa palestra comunale, al fine di fare dei laboratori, cioè si percepiva molto di più il senso di poter fare per esempio i laboratori sull'upcycling, sul riciclo, aveva una dimensione molto più laboratoriale. Purtroppo come spazi di occupati siamo rimasti veramente pochi, perché noi, diciamo, la Catania come città dall'esperienza delle occupazioni viene da quella grande ondata degli anni 90, inizio 2000, dove sicuramente gente me lo può confermare, esistevano tutta un'altra serie di centri sociali, come per esempio il primo era il Vulcania, il Guernica, Esperia, eccetera eccetera, Auro, Vulcania, eccetera eccetera, che erano spazi controculturali di, insomma, di un certo tipo. Si organizzavano assemblee, erano compagni, si strutturava quello che era un pensiero controculturale. Poi molte volte chiaramente appunto arrivano gli sgomberi e di conseguenza le esperienze finiscono. Mantenersi all'interno dello spazio è, come dire, è un fatto, è difficile alle volte da fare, perché chiaramente le energie vanno e vengono quando molte volte i posti restano aperti ai contributi di ciascuno, perché molta gente purtroppo poi se ne va, vuoi perché deve emigrare per questioni lavorative, vuoi perché studio e altro. Però comunque ancora adesso al momento sembra esserci, voglio dire, un senso nel voler proporre determinate cose, che il primo semplicemente è da come si era partiti 14 anni fa, cioè il senso è di continuare a poter portare avanti una proposta di un certo tipo, politica, controculturale, che sia comunque sempre dal basso, sempre in sostegno principalmente agli artisti che si esibiscono e ai contributi che riceviamo dalle persone che hanno voglia di portare avanti un'idea. Io non penso di avere altro da... Va bene, magari poi approfondiremo anche alcuni aspetti anche in base alle sollecitazioni che magari ci verranno. Volevo chiedere a Carmelo, tornando un attimo alle foto, rimbalzando un po' da una parte all'altra, una cosa un po' in particolare, cioè nel senso che tu a lungo sei stato quasi principalmente anche, perché ti chiamavano, un fotografo di concerti, no? E volevo che ci dicessi due parole, anche qui ci sono un po' di... qualche foto di concerti che hai fatto in alcuni posti. Volevo chiederti appunto, cioè, com'era l'esperienza, no, di trovarsi lì in prima linea a cercare di cristallizzare in qualche modo un'immagine per dare il senso di un concerto, magari, no? Ma io quando facevo foto ai concerti, per lo più ero chiamato da Outsider Web Design, che era una rivista online che si occupava appunto prevalentemente di musica. Fondamentalmente ho iniziato con alcuni concertini un po' più piccoli e ristretti in un locale che si chiama Glamour a Catania, all'epoca ne faceva molti, tantissimi, e dopodiché, diciamo così, fra virgolette, con passaparola, ho iniziato anche a fotografare eventi un pochino più grandicelli. E dal punto di vista musicale, non sono io a dirlo, Catania è molto attiva, è molto, forse parecchio anche attiva, anche in questi anni. C'era quella cosa che la chiamavano la Seattle, insomma, prima o poi è una storia che viene sempre fuori, mi sembra un po' esagerato, però vabbè, comunque è comunque ancora tuttora è molto molto molto attiva. Beh, basta pensare che alcuni nostri amici anche catanesi continuano a produrre e a fare, secondo me, dell'ottima musica. Mapuche, Claudio Palumbo, i Bestiame, i Smeg e Babauri, musica a impatto zero, a chilometro zero, perché sono tutti là, a chilometro zero. Non ho voluto mettere in un certo senso foto di concerti, perché molto spesso e volentieri, dove mi mandavano a fare i concerti, perché appunto ero inviato da questa rivista, dove mi mandavano a fare i concerti erano posti più regolari, locali. Il One Day sulla playa, che è un posto dove si fa musica, l'1 maggio è un posto dove si organizza questo mega concertone, tutti gli artisti internazionali, tutti musica techno, reggae, eccetera eccetera eccetera, quindi sono posti più di massa, mettiamoli così, più di numero, più di economia, di turismo, come dicevi tu prima, come diceva Edoardo prima, più di presenza. E secondo me, infatti, paradossalmente, le foto più carine e belle di concerti le ho fatte invece in posti come il Teatro Coppola o la Lupo, perché sono posti in cui uno potevo muovermi più liberamente. Sul palco, sotto il palco, dietro le quinte, c'era poi, conoscendo anche i ragazzi sia del Coppola che della Lupo, c'è un rapporto confidenziale, poi uno si conosce in questi posti, non è? E quindi ti fanno anche meno problemi nel muoverti, nel gestire la tua posizione, soprattutto per questo. Due, perché in questi posti tende quasi sempre a cadere la barriera che c'è fra l'artista che si esprime e il pubblico, secondo me, e questo crea un, diciamo così, un dialogo, un botta risposta di emozioni fra chi si esibisce, che sia musica, che sia teatro, che sia performance, e chi sta dall'altra parte seduto a godere dello spettacolo, della musica, del concerto, della rappresentazione, quello che è. Questo è molto molto molto molto vero nella Palestra Lupo, perché molto spesso e volentieri la Palestra Lupo regala concerti davvero davvero molto divertenti e ed eccessivi. Non mi viene un termine migliore. Eccessivi in senso buono, attenzione. Anzi, anche in senso cattivo, ci sta. Beh, ci sta. Ma anche al Coppola. La Coppola, la Coppola fanno anche cose un po' più, diciamo, non so se è il termine giusto, io non mi stimo bene con le parole, un po' più elevate, perché fanno anche un po' più teatro, più un po' più cose sperimentali, cose più sperimentali, anche se vogliamo. Io almeno quello che ho visto più elevato. Almeno quello che ho visto almeno negli ultimi periodi, la Palestra Lupo mi sembra più da battaglia, fra virgolette. Il Coppola mi sembra più culturale, mettiamola così. Un pochino più, un gradino più in altino, ma non per sminuire i ragazzi della Lupo, perché la Ragazzi della Lupo sono più battaglieri, più impulsivi, mettiamola così. Quelli del Coppola organizzano, sono più organizzati, secondo me, come strutture. Almeno da quello che ho potuto vedere io. Un'altra cosa, quando tu dici, parlami della foto dei concerti, io le foto dei concerti, quando mi chiamavano a fare queste foto, lo vedevo più come, certe volte, un allenamento. Sembra brutto da dirlo, ma in realtà questo mi permetteva di sperimentare anche molto, sia visivamente che con i colori, che con le luci sul palco, era come un apprendimento continuo. E ciò si è visto anche nelle foto, paradossalmente, si è trasmesso anche nelle foto nelle manifestazioni. Fiaccole, le luci della città, zone in penombra. I concerti in questo mi hanno molto aiutato, perché quando tutti chiamano a fare le foto a un concerto, oh, domani vai là, c'è questo concerto, vai a fotografare, non sai le luci che ti trovi davanti, non sai se è ben illuminato, se è poco illuminato, se sono tanti colori, se ce ne sono pochi, se il palco è piccolo, se sei lontano dal palco, non sai tante cose, e questo ovviamente ti aiuta ad adattarti a quello che trovi, a cercare il colpo d'occhio, a cercare il momento in cui l'artista, perché in cui l'artista si muove in un certo momento, evitare di fotografarlo in movimento, troppo mosso, troppo al buio, sgranato, sfocato, è un casino. Quindi questo mi ha allenato molto nel colpo d'occhio, tantissimo, moltissimo. Anche perché dovevi fare un certo numero di foto. Anche perché dovevo fare un certo numero di foto. Io poi scattavo pochissimo, ma almeno per pubblicare una rivista serviva un certo numero di foto, perché è inutile che mi andavo da chi mi commissionava queste foto e gli presentavo due foto. Almeno una ventina dovevi farle. Cosa che io ho sempre detestato, fotografare a mitraglietta, come si dice nell'ambiente, metterti lì a fare 2000 foto di uno stesso concerto, che poi il 90% lo scarti e il resto magari è qualcosa di buono, cosa che ho sempre detestato. Infatti quando mandavo le foto c'era la responsabile della rivista a Catania, mi diceva, ma come, mi hai mandato solo 20 foto? Mentre gli altri fotografi, altri ragazzi e ragazze che collaboravano, ne mandavano 200, 300, roba del genere. E io, sì, questo ho fatto. E infatti di quelle 20 foto, 18 erano buone, 2 non le metteva. Perché io aspettavo, ho imparato ad aspettare il momento giusto in cui l'artista, anche a immaginare il momento giusto in cui un complesso si muove in un modo in cui io posso fotografare. E questo è vero nei concerti, come è vero nella ragazza che muove la fiaccola, nella foto che lo chiamo la catanese che guida i popoli. questo è vero nelle foto del Coppola dove i due ragazzi si abbracciano, perché certe foto si aspettano, certe foto c'è il colpo d'occhio, vedi, oppa! Certe foto tu aspetti, guarda e dici, ora quei due che si guardano, si baciano, si abbracciano, appena lo fanno, pa. E questo, i concerti mi hanno dato tantissimo in questa cosa. Altra cosa che aggiungo, molto spesso vedete che in alcune foto solo certe cose sono colorate, altre no. Questa è una cosa che mi deriva dai fumetti. È una cosa che mi deriva dai fumetti, perché alcuni fumetti, in alcune scene, in alcuni albi, in alcune storie, la fanno questa cosa, per concentrare l'attenzione su un colore, per spezzare un po' tutta l'inquadratura, per dare il colpo d'occhio, la fanno. E un'altra cosa che fanno è inquadrare i riquadri in un certo modo. L'inquadratura, i disegni all'interno di un riquadro sono in un certo modo. Questo qui, questo tipo di prospettive, nelle mie foto si vede tantissimo, come nel ragazzo che sbandiera la bandiera della pace. Quella sarebbe, secondo me, l'inquadratura da fumetto. E siccome io sono un accanitissimo lettore di fumetti, centinaia di fumetti all'anno, penso che leggo fra le graphic novel, albi, edizioni speciali, penso che Questa cosa, mi deriva dal liceo, che il mio amichetto mi prestava i fumetti di Dylan Dog mentre c'erano le lezioni di storia, di matematica. Io leggevo fumetti. Mi è scattata sta mania. E questa cosa, non conoscevo ancora la fotografia. Io ho fotografato in età più grandicella. Dopo alcuni anni di università ho conosciuto questa cosa della fotografia. Questa cosa mi ha sempre influenzato. Fumetti e l'istruzione che mi è arrivata, l'allenamento che mi è arrivato dai concerti quando mi chiamavano a fare foto. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Bene, allora una domanda invece per Edoardo. Abbiamo parlato di Catania, del processo di gentrificazione, che comunque rientra nel più ampio contesto di gentrificazioni che percorre un po' qualsiasi città, qualsiasi posto, no? Questa mostra vuole raccontare un po' la Catania che invece resiste in qualche modo anche a questo processo di gentrificazione. E a questo proposito, diciamo, ci sono dei quartieri a Catania molto popolari, così, uno tra l'altro anche a ridosso del Coppola, di fatto, San Benillo, ma c'è anche la Civita, insomma. Appunto per questo volevo chiederti anche perché il senso di oggi era cercare di scambiarci un po' le esperienze, no, tra posti di questo tipo qui a Milano e anche a Catania, e appunto il rapporto con chi vive attorno al Coppola, diciamo, cioè il rapporto con la città un po' in generale, ma poi nella fattispecie anche il rapporto che c'è del teatro con quelli che ci vivono attorno. Vabbè, parlando un attimo del Coppola come spazio, il quartiere dove si trova il Coppola è chiamato Civita, è il quartiere di centro città, infatti, e sostanzialmente all'inizio era un quartiere di pescatori, è un quartiere di pescatori della zona, che però si sta vedendo ultimamente una serie di aperture a macchia d'olio di Airbnb e di alberghi, sostanzialmente. C'è il rischio molto, soprattutto per chi è da fuori, di percepire un posto anche come il Coppola come un posto dove sostanzialmente è il posto occupato bello da andare a vedere, controculturale, che fa parte di una parte di un quartiere gentrificato. Fortunatamente, diciamo, ancora non è così, perché comunque sia, per esempio, il rapporto che noi abbiamo con i pescatori della zona, che è un rapporto chiaramente di buon vicinato, mettiamola così, è anche espresso nel fatto che, per esempio, a discapito anche di molte altre realtà che invece hanno chiuso per questo motivo, il Coppola fin dall'inizio non ha mai voluto un dialogo col comune, mai. Questa cosa ha fatto sì che il comune rispondesse più o meno in modi abbastanza strani, cioè per esempio una volta ha mandato una raccomandata a nome di Pietro Antonio Coppola, che è come se io mandassi una raccomandata a nome di Giovanni Verga, praticamente, oppure mettendo così totalmente in maniera, diciamo, non dichiarata l'edificio in vendita, ma l'edificio non è stato mai comprato, perché collaborare col comune avrebbe sì tutta una serie di, come dire, di pecche che porterebbero poi sostanzialmente al suicidio del posto, cioè a chiuderlo. Per quanto riguarda altri quartieri, che sono una situazione abbastanza complicata, un quartiere per esempio storico che vive invece un rapporto molto battagliero, il quartiere di San Berillo. San Berillo è stato il più grande quartiere a luci rosse d'Europa all'inizio del Novecento e anche successivamente, che si è visto un progetto di distruzione dell'intero quartiere per creare questo enorme boulevard sostanzialmente negli anni 50. Il progetto fortunatamente non è mai partito, o perlomeno è partito in parte, perché si esprimeva in maniera abbastanza subdola, nel senso, noi abbiamo un enorme costruttore, che è il costruttore più grande della Sicilia mediorientale, che è chiamato Virlinzi, che ha attuato una serie di compravendite selvagge del quartiere, eliminando sostanzialmente gli abitanti residenti. Il quartiere si è trovato molto cambiato, perché dalle sex worker che lo abitavano, adesso per esempio il quartiere è abitato da maggioranza di migranti. Quindi è una realtà molto complicata quella che si vive, una realtà molto complicata perché poi chiaramente all'interno convivono sostanzialmente le logiche da strada che non coincidono con una realtà popolare, o perlomeno con una realtà cittadina, mettiamola così. Perché le sex worker con la popolazione migrante ha dei conflitti che però devono essere risolti all'interno stesso del quartiere. Come si muove la cittadinanza? La cittadinanza si muove all'interno di un progetto di recupero, sostanzialmente, attraverso una serie di comitati di quartiere che pongono l'abitante del quartiere al centro della discussione. Quindi si cominciano a formare comitati, si cominciano a formare gruppi dove sostanzialmente ci si rifiuta nello sgombero forzato del quartiere. È un macello, con chi avere veramente a che fare, perché alcune strategie, per esempio, erano veramente molto subdole. Ve ne racconto una dove praticamente una signora anziana si era sostanzialmente ristrutturata a casa e praticamente Virlinzi telefona e dà alla signora, insomma, un'offerta di vendita dicendo non si preoccupi, faccia lei il prezzo. La signora rifiuta. E due settimane dopo non arriva né tantomeno la polizia né tantomeno la Digos, arrivano i pompieri e dicono: signora, lei deve lasciare il palazzo è inagibile, dopo che era stato interamente ristrutturato. Circa una settimana dopo Virlin si chiama offrendosi di nuovo di comprare, ma al prezzo solamente del terreno. Cioè la signora non entra più a casa e il terreno praticamente vale praticamente pochissimo rispetto a quanto la casa ristrutturata, il palazzo ristrutturato valeva, e funziona sostanzialmente così. Cioè non è mai un utilizzo, come dire, della violenza ai fini di sgombero per poter avere uno spazio. È capitato a Catania altre esperienze di sgombero invece abbastanza violento, per esempio l'Esperia fu abbastanza violento come sgombero per poterlo ridare alla cittadinanza in modi che poi sostanzialmente la cittadinanza non usa, perché uno era l'Experia, credo sia diventato un ufficio dell'università, ma che non ha assolutamente senso rispetto agli abitanti, per esempio, del quartiere di San Cristoforo. Un altro spazio che era Lauro, anche se ha tutta una parentesi a parte da un punto di vista di vita dello spazio, ma doveva diventare un famosissimo hub turistico che ancora oggi non ha mai aperto. Quindi non so, ecco, come suggestione, se la non collaborazione con le entità comunali possa funzionare come esperienza, però almeno dal nostro punto di vista ha funzionato. Cioè ancora ci permette di poter portare avanti tutta una serie di eventi, come dire, senza mettersi nella questione dei bandi, perché magari il giorno dopo fai anche un progetto, come dire, interessante, però magari domani il bando lo vinci, il giorno dopo lo vince Confindustria, quindi lo spazio ti viene tolto. Quindi al momento noi ci troviamo bene nel non rapporto di non collaborazione nel comune, cioè dare la possibilità alla collaborazione ai cittadini dentro che arrivano, che hanno qualsiasi tipo di proposte, e basta, sostanzialmente questo. Bene, va bene. Vediamo magari se c'è qualche domanda, intervento, sollecitazione. C'è Gulli, dai. Emiliano quest'oggi può rappresentare la memoria storica di Catania. Allora io vi ringrazio tantissimo, perché in realtà, da persona che frequenta un centro sociale a Milano, è veramente molto interessante in generale scoprire le storie altrove, adesso che orecchiavo la questione dei bandi. Chiedo scusa, questa l'ho persa io prima, sto diventando pazzo. La questione dei bandi è una roba che io pensavo fosse una grandissima invenzione, che non fosse uscita dal cartello Milano, perché a Milano locomotiva d'Italia, Milano che va avanti, Milano che non si ferma, Milano, tutte le varie cazzate che si raccontano per inventarsi un brand assurdo da poter vendere. Questa questione dei bandi invece noto con piacere che è arrivata anche altrove, per cui questo modo di gestire l'autogestione, per cui vabbè, mi ha fatto una situazione, ha partecipato a un bando, poi è un posto che cade a pezzi, poi è un posto che devi pagare le bollette, è un posto che sono a tuo carico le ristrutturazioni, sono andato a carico tutto, e dopo che gliel'hai sistemato poi magari appunto vieni comunque sgomberato, perché poi a un certo punto c'è andato la vendita, tu che sei soltanto un affittuario che paga pure poco, quindi stronzo, paghi pure poco perché sappiamo eccetera eccetera, sei un amico degli amici perché la giunta ti voleva bene, adesso fuori dalle palle, scusatemi il francesismo, però essenzialmente abbiamo visto un po' di tutte queste cose. Io guardando le foto, e in realtà da appunto, come dicevo prima brevemente, conoscitore solo di un certo tipo vacanziero ed estivo della Sicilia, mi sono sempre domandato come fosse fare movimento in Sicilia, e in base a video, poche esperienze, pochi contatti che ho avuto, ho sempre avuto la percezione che in Sicilia ci fosse molta radicalità, ci fosse molta contrapposizione, anche perché è una regione, perdonatemi di nuovo, qui sono gli stereotipi totali di chi vive al nord, sul sud, una regione piuttosto violenta, nel senso del molta povertà, difficoltà di accesso al lavoro, molta immigrazione, molto disagio sociale, marginalità, abbandono, cioè situazioni dove appunto poi questa cosa che ripeto da uno del nord che non ha nemmeno mai tanto vissuto la strada, questa presenza sembra un po' fantasmagmatica della criminalità organizzata, le collusioni con la politica, cioè un posto dove fare politica poteva essere seriamente pesante, seriamente faticoso e un po' più pericoloso magari che le comode università del nord Italia piuttosto che gli storici luoghi di movimento. Quindi in realtà, vabbè, lungo cappello introduttivo per dire che era molto... ci teneva questa cosa, mi è piaciuta molto questa cosa perché obiettivamente dava uno spaccato su questa situazione. Mi è piaciuta anche un po' la differenziazione tra Teatro Coppola e Lupo, anche perché molto spesso anche qui si è visto, no? Uno spazio che ora a Milano manca da parecchi anni, che però ultimamente è tornato alla ribalta, che è Macao, che forse è una di quelle realtà che si inseriva insieme al Sale Doc, al Cinema Palazzo, non so se forse addirittura anche al Teatro Coppola, erano quelle occupazioni dell'arte che stavano a simboleggiare due tipi di questioni: la mancanza di luoghi dove l'arte potesse costruirsi un po' più autentica, un po' più innovativa, un po' più creativa in Italia, dall'altra parte era tutto ciò che era la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici, lo spettacolo e della cultura, che avevano delle sofferenze infinite. Infatti ne è nato quasi un movimento nazionale di questi spazi, poi che ognuno ha preso la sua via, la sua strada in base alle funzioni regionali, le cordate nazionali a cui ha partecipato, però beh, insomma, una dimensione anche questa. E quindi niente, boh, in realtà se avete voglia di parlarci un attimino più nello specifico, proprio dei movimenti che ci sono stati a Catania. C'è stato a Catania, cioè in Catania no, in Sicilia c'è stato un grosso movimento contro le antenne delle installazioni militari, eccetera. Quella è stata una roba praticamente che era il parallelo a sud del movimento NOTAV, e poi cioè, tante altre cose che hanno riguardato la città. So, qui a Milano negli ultimi anni c'è stato qualcosa in relazione a questo ventennio fantastico di governo della sinistra che ha sgomberato più dei governi dell'amministrazione di destra, però oltre a questo c'è stato un po' di mobilitazione adesso quest'anno con la Palestina all'università. Però vabbè, insomma, se avete più voglia di fare il quadro su quello che è stato un po' le fasi politiche di questa Catania dal 2015 al 2025... Una domandina semplice, avete 3-4 ore, non c'è problema. Sappiamo che c'è un'entità che si rifiuta di parlare, che ha scelto il prepensionamento. Però il microfono ci arriva, volendo allunghiamo. No, non è vero. Prego, dai, prego. Scusate, in realtà il microfono è corto, però vai. Una piccola precisazione, perché avevi parlato giustamente anche della formazione a questo punto di vista nelle università qui al nord. Il Teatro Coppola, la Lupo, tutti questi posti qui fungono da un forte aggregamento. Quando qualche anno fa c'è stata l'inchiesta Università Bandita a Catania, dove c'è stata una specie di inchiesta dove il rettore e tanti altri professori sono stati intercettati per scambi essenzialmente di professori che volevano diventare di ruolo oppure bandi, e c'era una compravendita essenzialmente di questa cosa, gli studenti se ne sono più o meno fregati. Cioè c'è stata una piccola occupazione del rettorato una settimana dopo, durante l'estate, e poi è finita. Cioè non c'è il contesto è che non ci può essere un'aggregazione e una formazione all'interno dell'università lì, e neanche all'accademia, che ho fatto l'accademia laggiù, neanche cioè le persone se ne fregano essenzialmente, perché non ci puoi fare nulla, c'è una sorta di impotenza. Però in questi piccoli luoghi ci può essere una... Cioè, sono gli unici luoghi dove è possibile effettivamente creare un'aggregazione giovanile. L'unico grande movimento che c'è adesso a Catania, nelle università, che si è creato, e non è grande, l'ultima assemblea che ci sono stato c'erano esattamente 5 persone a un tavolino, in un chiostro, era il movimento degli studenti per la Palestina. Il contesto è quello, cioè se voi venite da questo contesto è una cosa differente. Vabbè, più che altro, cioè nel senso, per me il discorso diventa molto semplice, nel senso che movimenti anche da prima del 2015 ci sono stati, cioè nel senso che Catania ha una storia di lotta di un certo tipo tra autonomi, tra movimento anarchico, da post Alfredo Maria Bonanno in poi. Il movimento No Muos in Sicilia, che è molto forte, molto presente. La questione di lotta più che altro è purtroppo alle volte legata a una questione presenziale, nel senso molte energie per poter portare avanti una lotta alle volte si disgregano perché le persone non ci sono, perché la possibilità di poter rimanere in un posto per poter lottare per una questione di spazio, di diritti, è difficile laddove i diritti vengono negati per tutta una serie di motivazioni mafiose, di gentrificazione, di opportunità, di studio. Chi rimane chiaramente molte volte o si ritrova isolato, oppure laddove per esempio come nel Muos, che è una lotta veramente grande da quel punto di vista, resiste. La questione secondo me più da affrontare non diventano poi mai più in questo caso i che fare, ma forse quello che un attimo si deve ricercare sono i perché fare, cioè a molte persone per esempio manca questo. Se si cerca questa cosa di portarla avanti con gli spazi, perché sono, cioè gli spazi sostanzialmente sono mura, cioè non servono a niente, cioè sono pietre, sono piastrelle, non servono a nessuno. Al massimo possono servire per poter chiudere dentro tutta una serie di persone che discutono su delle cose. Fortunatamente ancora ci sono alcuni spazi che questa cosa la permettono. Non sappiamo ancora per quanto, forse non ci interessa, nel senso forse uno deve andare avanti fin quando deve andare avanti. Buh. Però il rapporto chiaramente è difficile, perché comunque noi siamo sia una città medio grande ma abbastanza provinciale clientelare allo stesso tempo. C'è una dinamica dove puoi fare delle lotte di un certo tipo fin quando te lo permettono, perché chiaramente un peppino impastato non so appunto quanto dura, no? Cioè sono tante le cose averci a che fare. Il come portarle avanti secondo me diventa poi una questione non di cambio generazionale ma di chiamata alle armi, perché fortunatamente a me le chiamate alle armi non interessano, però perlomeno un attimo di capire un attimo a che punto si è nella realtà territoriale che si vive, che è molto difficile laddove chiaramente la gente viene e va, perché appunto 5 anni fa ti trovi una città, 5 anni dopo te ne trovi un'altra, quindi laddove ti manca la geografia ti mancano i punti di riferimento appunto per resistere, per dire qua ci sto io. Questo secondo me è un po', cioè uno dei punti più che altro. Volevi dire qualcosa, Mia? Sulla domanda specifica, ma sì, poi Emiliano detto che dice no. La questione sulla domanda specifica della questione dei movimenti in Sicilia, cosa sono, dove vanno, da dove vengono, vabbè, quello lasciamolo stare. C'è una sindrome nei movimenti siciliani, che è la sindrome dei Vespri siciliani. Quindi ciò che dovrebbe essere organizzato diventa semplicemente episodico ed entusiasta. Quindi ha una breve durata e implode nella breve durata, perché noi, da bravi collettivi composti da individui assoluti, riusciamo poi a deflagrarci. Il Muos è stato di grande impatto anche mediatico. Dentro le assemblee dei campeggi del Muos è successo ciò che un'avanguardia artistica di tipo nichilista, punk, hardcore, poteva solo sognare. Quindi il problema reale non è l'urgenza delle istanze politiche, che è reale, non è il fatto che vi siano stati dei movimenti che hanno ottenuto dei risultati, quantomeno di istanza politica, poi non necessariamente risultati reali nella politica, ma hanno spostato l'attenzione su determinate controversie e contraddizioni, ma è il fatto che il siciliano non fa politica, non riesce a fare politica, perché non ha un'organizzazione, un metodo organizzativo per potersi permettere di fare politica, fa cultura, fa evento. E in questo, in questa episodicità, collassa. Meno male che l'ha registrata. Ma allora no, a questo punto potremmo interrogarci sul perché al siciliano manchi questa struttura politica. In un certo senso si poteva dire, un tempo si diceva che l'Italia è il laboratorio politico dell'Europa per tutte le schifezze che si possono fare. La Sicilia è il laboratorio dell'Italia, fondamentalmente, per tutte le schifezze politiche che si possono fare. Ma assolutamente sì, berlusconismo, sì, tutto quello che vogliamo, no? mostrato egregiamente da Franco Maresco con Berlusconi, se ci fossero altre cose da dire, no? Sempre in termini di movimenti e di cose che sono successe, noi mi ricordo, ma sempre ormai preistoria, perché un evento che risale a 17 anni fa, è l'ultimo grande movimento studentesco, nel bene e nel male, forse più male che bene. Stiamo parlando del 2008, dell'Onda, in cui si riuscì a paventare forse una costruzione di una specie di rete che coinvolse tante persone, tante diverse cose. Anch'io ai tempi ne feci più o meno parte, ma che pur nel più bene che male, dicevo prima, oggi sarebbe impensabile, no? Cioè costruire una grossa manifestazione così impraticabile. Pur, ripeto, con tutti i difetti, perché poi c'erano tantissimi difetti. E nell'Onda si vide come l'entusiasmo di cui parlava prima Emiliano fosse evidente, lampante. Ci sono state un paio di settimane in cui sembrava che dovesse esplodere la città, che l'università dovesse cambiare in maniera radicale, ma questa cosa poi si è sgonfiata tipo palloncino, veramente, facendo esattamente lo stesso suono anche di un palloncino che si sgonfia. No. Chiaramente poi... anche la mancanza di una certa continuità incide molto su questo, no? Cioè, ma assolutamente sì, no, assolutamente sì. C'è un problema dell'Onda, era per esempio forse il più grave problema, era che era un movimento che che era un movimento che si voleva molto molto aperto, senza nessuna chiara direzione politica, doveva accogliere tutti perché doveva essere mirato a degli obiettivi molto specifici, che erano quelli legati all'università, e quindi la direzione politica che preludeva una specie di organizzazione di fatto non c'è stata, cioè per quello che è finito l'Onda, no? Si parlava ora di quegli anni in cui ci sono state le occupazioni dei teatri, in cui c'è stata anche l'occupazione del COP, possiamo chiamarla la stagione dei teatri occupati, no? Non lo so, c'è Catania, Palermo, Messina, Roma, il Teatro Valle, Venezia, no? Insomma, c'erano tutte queste questioni. Poi come sono finite? Sono finite quasi tutte, forse solo il Coppola resiste di fatto. Il Teatro Valle ha deciso di suicidarsi... C'è al momento il Coppola risulta l'unico teatro occupato d'Italia. Ma proprio a conferma di quello che dicevi tu, cioè del dialogo, del rapporto con l'istituzione, cioè il Teatro Valle ha dimostrato che un tentativo di dialogo con l'istituzione praticamente si è tradotto in un suicidio del Teatro Valle. Hanno deciso di suicidarsi ed era una grossa esperienza, c'erano tanti, era... la maggiore espressione di questo momento, di questo periodo, e quindi è finita in questo modo. Quindi spazi di resistenza piccoli finché ci sono, teniamoceli, no? Non lo so, e vedremo come va, non so. Domande, risposte, domande sulle pasta. Foto, domande, risposte, pasta. C'è una domanda, risposta. Vabbè, in realtà è una domanda a cui hai già risposto più o meno, perché gli avevo chiesto se c'era un filo che teneva insieme le foto, però prima appunto avevi detto che sono foto tipo, che hai fatto nel corso degli anni e che non rappresentano tipo, un percorso univoco. Quindi diciamo che questa era la domanda, però è abbastanza... cioè se vuoi espandere, però non lo so. Il filo ovviamente è Catania, di base. Che non sia stato quello l'intento iniziale quando faccio le foto è vero anche. Diciamo che per come fotografo io poi un filo si trova. Poi un filo uno lo riesce sempre a trovarlo, perché comunque uno si struttura con uno stile, un modo di vedere le cose, un luogo affezionato, una situazione in cui si affeziona. E quindi bene o male poi se uno deve fare una mostra, almeno nel mio caso, se io devo fare una mostra e mi si richiede un tema o un'idea o un filo conduttore, lo trovo. Perché comunque per quando tu fossi a fotografare poco, in 10 anni un centinaio di foto ce le hai, anche di più. Una foto all'anno. Un'altra domanda che comunque mi è stata fatta sempre: ma perché proprio Catania? Perché non Palermo, Messina, Milano, Roma, Bari? Perché io non ho viaggiato molto, obiettivamente, non sono un grandissimo viaggiatore, non ho visto molti posti, ma da quel poco che ho potuto vedere, che ho potuto cercare, perché sono stato appunto a Bari, a Firenze, a Milano, a Berlino, quel poco che ho potuto vedere, anche se fu per breve tempo, non percepivo le stesse, mi dispiace usare il termine, perdonatemi, non c'è nulla di esoterico, vibrazioni, sì, vibrazioni che mi trasmette Catania. È una cosa assolutamente soggettiva, ci saranno centinaia di migliaia di persone che dicono che Catania mi fa cagare, e fondamentalmente può essere anche vero per alcuni aspetti, ma quando io arrivo lì, e non stiamo parlando solo di feste di weekend, stiamo parlando di merdosissimi martedì sera, certe volte mi escono le serate più belle e divertenti della mia vita. Perché Catania, certi luoghi, certe persone, certi posti di Catania non dormono. Non lo so perché. Figurativamente non dormono. Figurativamente non dormono. Cioè io mercoledì sera ho fatto le albe a Catania. Per forza di... Perché è la classica serata, tu dici, sì, la puoi fare ovunque, dici, vabbè, esco per una birra e mi ritiro alle 4 e mi spacco. Il problema è che questa cosa succede anche di martedì. Tu esci per una birra e ti ritrovi in macchina con i meriti sconosciuti a accompagnare chissà dove. Lo tocco fa... Probabilmente... Sì. Come è successo? Ti ritrovi a Coppola... Ti ritrovi a Coppola e ti spuntava Brigantoni senza motivo. No, ancora vivo. Fortunatamente ancora vivo. Paolino, vai. Non c'è una foto con Paolino perché non gliele faccio foto a Paolino. Paolino, lasciamolo come un'esperienza improvvisa. Paolino è un il vero sindaco di Catania, potremmo definirlo un'esperienza collettiva, si esprime solamente dicendo ti voglio bene, cioè questo è la summa, ed è un po', sembra strano l'esistenza di Paolino all'interno di una città dove invece forse alle volte ci si vuole solo ammazzare a vicenda, cioè infatti però o ferire perlomeno. Paolino è quello di cui abbiamo bisogno ogni tanto, e qualcuno ci dice che ci vuole bene. Sì, certe volte abbiamo bisogno semplicemente di qualcuno che ci dice che ci vuole bene. Ora, senza perdermi nel discorso, dove ero arrivato, certe cose però di Catania sono possibili ovviamente solo di notte. Io parlando con la mia psicologa qualche tempo fa, gli dicevo questa cosa: a me piace la notte. Lei tentava di normalizzare, ma perché di notte? Queste cose non le puoi fare anche di giorno? No, perché di giorno le persone sono avvocati, impiegati all'INPS, vice direttore di posta, gente che fa documenti, che disbriga pratiche. Di notte l'avvocato è un cantante, chi disbriga pratiche è un attore. Sì, c'era un manifesto bellissimo in una città, in una via della Movida, di quelle degli aperitivi, C'è un lenzuolo scritto bellissimo di un abitante, lei c'ha Catania come Gotham. Perché noi vi è gemellare. il che secondo me il problema, esatto, lo vedete proprio quello, il problema è che Batman non esiste. Di Joker ne possiamo anche vendere quando ne volete. Ed è che è cosa che rende secondo me Catania molto divertente, è piena di Joker. Un super omino che dice che ti vuole bene. E ti vuole bene. Paolino gira attorno al proprio asse. Sì, esatto. Infatti io stavo dicendo prima, scherzando con gli amici, altri quattro catanesi non diventa più una mostra di foto catanese, diventa una mostra di catanesi. Cioè, siamo lì ad ammirare i catanesi presenti alla mostra. Edoardo Monteforte, alto 1,90 m oltre, nella sua tenuta nera. Quello che voglio dire è perché questa città mi ispira di più di altre, perché sono stato a Palermo anche diversi giorni, diverse volte, sono stato a Firenze diverse volte perché mia sorella sta lì vicino, quindi diverse volte per giorni consecutivamente, non riesco a trovare immagini, perché stiamo parlando di foto, immagini uguali a quelle che trovo a Catania, anche pur partecipando tipo a Milano a manifestazioni. L'anno scorso, una situazione qui a Milano, sono stato quasi aggredito e scambiato per uno che faceva foto per gli sbirri. Ci può stare, ma almeno dammi fammi spiegare fammi spiegare. Sì, è un momentaccio e ci può stare, ma dai, sì, sì. A furia di, cioè, a dirglielo, ma guarda che siamo, cioè, non, no, cosa che a Catania fa Pride Day, cosa che Pride a Catania secondo me è molto sentito ogni anno, è bello, il Pride a Catania è bello, il Pride a Catania è bello, perché riesce a coinvolgere anche turisti che spuntano dagli hotel, che ballano sui balconi, il Pride a Catania è bellissimo secondo me, ad anni alterni, un po' più frequentato, ma quello ci sta. Sì, anche a Enna hanno fatto un bel Pride. Ed è stato un bellissimo Pride. Ho amici di Regalbuto, sono andati a Pride a Enna. Regalbuto è il mio paesino, il mio giardino dove vivo. E mi hanno detto che c'erano tantissime persone. Enna è diventata una città universitaria. Mi sa che devo anche frequentare più Enna a sto punto. A sto punto mi conviene. Ora non lo so perché è una città, perché ho frequentato per più anni, è confidenziale, conosco più persone. Però sono stato in posti diversi. A Firenze mi sono annoiato di notte. Sì, bellissima, meravigliosa, tutto quello che vuoi, meravigliosa città Firenze, ma di notte dormivo. A Catania, anche se vuoi dormire, non ti fanno dormire. Non ti fanno dormire. È Gotham, non ti fanno dormire. Io spero che ci siano altre Catania, sicuramente ci saranno altre Catania nel mondo. Lo spero, me lo auguro. E io stamattina dicevo a un'amica, non dobbiamo fare diventare Catania come Milano, dobbiamo fare diventare Milano come Catania. Sì, dobbiamo fare diventare Milano come Catania. Dobbiamo farla regredire il giusto per farla tornare divertente. Dico sempre questa cosa. Non so se siete mai stati a Palermo, in altre città, ok, del sud, in Sicilia. Se uno va a Palermo, è molto sentita la cosa dei discorsi contro la mafia. Le persone lì si, diciamo, io la sento un po' più, tipo, lì l'hanno commissariato, l'altro posto è stato commissariato pure. Perché hanno avuto una specie di trauma dagli anni Ottanta in poi, dalle guerre di mafia che ci sono state, e quindi hanno anche una specie di resilienza diversa. A Catania, fino agli anni Ottanta, la mafia non esisteva. cioè almeno questa era la vulgata, gli anni 80-90 ti dicevano la mafia non esiste, fino agli anni 80-90 Pippo Fava, che è stato l'unico giornalista che parlava contro la mafia a Catania, che è stato ammazzato dalla mafia, si diceva che era stato ammazzato per un delitto d'onore, perché lui faceva le corna alla moglie. Si diceva per questo, era un delitto di queste cose. C'è voluto l'unico, e anche qui la grande differenza con Palermo, a Catania abbiamo avuto l'unico pentito di mafia, e questo era un sicario di Santa Paola, che si è sentito con l'acqua alla gola e si è pentito. Ha detto quel poco che ha detto, ed è stato anche Santa Paola poi condannato, perché c'era una dichiarazione dei palermitani. Ma altri pentiti di mafia a Catania non ne abbiamo avuti. Quindi finisce che hanno tolto Santa Paola, che era affiliata a Cosa Nostra, che era palermitana. Che cosa facciamo? Non si è più... era un modello diverso. Catania, rispetto a Palermo, non aveva avuto problemi come Palermo ha avuto con Salvo Lima. Salvo Lima era un deputato della Camera che fu ammazzato e è scoppiata la perché non riusciva a dare delle giuste garanzie. Esatto. Noi invece a Catania avevamo Drago, il padre di Ninuzzo Drago, il padre di Filippo Drago. A Catania c'era una connivenza incredibile. Pippo Fava, quando parlava dei quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa. I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa erano quello che ora è dell'Unicredit, ovvero il Banco di Sicilia, la Sicilia, il quotidiano, e poi i fratelli Costanzo e Virlinz. Cioè, hanno tagliato una testa, e ora è rimasto comunque la stessa cosa. Cioè, noi da praticamente 20 anni più o meno la mafia ha continuato a essere quello che era prima dell'esplosione di Cosa Nostra a Palermo, ovvero qualcosa che non esiste, che non c'è, però c'è. E quindi c'è un'alta connivenza. Cioè, Filippo Drago con questi grandi imprenditori era sempre alle scene. Filippo Drago. Santa Paola, il capo, il boss, con questi grandi imprenditori era sempre alle feste del sindaco. Era una cosa troppo potente da poter distruggere, ed è stato distrutto perché è deflagrata la cosa a Palermo, perché quelli hanno voluto fare la guerra allo Stato. Però il modello catanese di mafioso è un qualcosa di fondativo, ed è fondativa questa cosa anche per, come diceva Emiliano, del nostro, diciamo, subire e poi deflagrare una certa, perché noi ce le accogliamo queste cose, le vediamo ogni giorno, sono quelle dinamiche, e non abbiamo quella grandissima resilienza a questo punto di vista. Anche l'esempio che avevo fatto sull'università, il fatto che esistono invece questi spazi, è strana sta cosa, perché voi magari conoscete questi spazi anche per via dei colleghi dell'università e cose di questo genere. Lì non c'è questo ponte, gli spazi autogestiti, i centri sociali, non c'è un ponte tra gli studenti e gli spazi. Ci sono gli spazi e prima o poi le persone ci vanno e basta. Un tempo magari c'era, ora è un po' e basta, giusto? Ok. Peso, però non lo so, è una mia opinione, ricordo. Cioè, una domanda al collettivo ZAM proprio. Gulli, una domanda per te. Io avevo una domanda, Gulli, più che altro per capire un attimo le differenze tra diversi spazi. Per esempio, noi abbiamo nelle persone che attraversano lo spazio non capita, per esempio, non avendo una realtà cittadina molto grande o più che altro una realtà cittadina dove molte persone rimangono, non abbiamo, per esempio, un ricambio o perlomeno un attraversamento dello spazio, per esempio, dalle generazioni migranti di seconda generazione. Questa cosa come si esprime, per esempio, nel vostro spazio? Ma Ma allora, in realtà è un problema questa cosa qua. A Milano ci sono pochissimi collettivi che stanno avendo dei ricambi generazionali con seconde generazioni di persone migranti. C'è uno che è il cantiere, però, che sono anni che punta tutto o quasi tutta la sua attività politica su un quartiere molto popolare con altissima percentuale di migranti, che è il quartiere di San Siro, e che comunque ha nel suo figura di riferimento una persona che ha di origini etiopi, per cui riesce comunque un po' già a dimostrare che è possibile questo meticciato, che poi è una parola che loro utilizzano moltissimo. Noi abbiamo la nostra componente di seconda generazione, che però è più legata ai classici fenomeni, modi, maniere di vivere la periferia da parte di chi è migrante di seconda generazione, quindi piccola criminalità, partecipazione solo saltuaria. C'è ovviamente una grandissima intesa nell'odio per le forze dell'ordine e per tutto ciò che è ordine costituito, però poi finisce lì, anche perché poi naturalmente il linguaggio, il modo di porsi, cioè diciamo già proprio fuori dai denti, non riescono a salutare le nostre compagne. Non esistono, cioè se sono io e una compagna del collettivo che fa tutte le cose che faccio anch'io, salutano me, non riescono a salutare lei, cioè non ce la fanno, e questo comunque è un po' complicato, un po' perché sono adolescenti e quindi nel senso, magari ce la faranno, eccetera eccetera, esatto. Ma questa è una cosa, e la grossa parte del nostro ricambio generazionale comunque arriva sempre dagli ambiti studenteschi, dove comunque noi siamo una realtà piuttosto attiva. Non tutte le realtà a Milano sono così, e infatti molte realtà stanno facendo molta fatica a attivare questi tipi di ricambi generazionali. C'è poi tutta quella parte che riguarda lo sport popolare, che di nuovo qui dentro sta funzionando parecchio bene, perché penso che anche fosse in Sicilia l'ambito dello sport popolare, lo sport connotato che esce dalle occupazioni, un ambito composto da persone estremamente di cuore, estremamente attive, che tra l'altro è l'unico ambito dove si riesce a lavorare tutti insieme dal nord-est fino all'ovest, fino a Roma, perché si tende a dire questo è sport, è un altro ambito, e quindi niente, da quell'ambito lì, poi essendo che è un sistema per esempio per noi che ha funzionato molto bene, le persone che vengono a proporre i corsi sono militanti della loro attività, non sono soltanto gli utenti della loro attività, e quindi in quanto già militanti, cioè che si prendono la responsabilità di organizzare un evento, un corso che dura un anno, che dura più anni, eccetera eccetera, sono già persone che hanno il concetto di organizzare la cosa, non soltanto di viverla. Però poi all'assemblea di gestione nostra lunedì sera ci sono tendenzialmente ancora studenti, studentesse tra i 20, il più giovane di noi adesso ha 18 anni appena fatti, e il più vecchio ne avrà 39, però purtroppo non stiamo riuscendo a uscire molto. Abbiamo molto questo concetto della costruzione di comunità, che inizia a essere un po' lo sfondamento di questa dimensione, nel senso che comunque noi siamo una piccola palazzina, ci siamo strutturati che quasi ogni stanza è un progetto diverso, rischiavamo di essere condominio, stiamo forse virando per essere veramente un po' una roba che adesso soltanto nei miei pensieri è un po' tipo comunità zapatista, per cui c'è tanta gente diversa che fa cose diverse, che però si rivede in ideali comuni, che vive uno spazio comune, che vuole ricostruirlo, e che allora sta cercando un attimino di amalgamarsi per capire dove andare. Abbiamo fatto adesso il Carnevale Popolare, che è venuto molto bene, proprio perché per mesi c'è stato questo martellamento costante, bisogna fare le cose assieme, con anche un passaggio successivo, che era la costruzione di comunità passa dal fatto che riconosciamo qui dentro un valore, che è il valore di fare qui dentro delle cose che fuori non ci possiamo permettere, quindi questo luogo come esodo, come isola felice, come luogo dove puoi costruirti la tua rivoluzione qui e adesso. Rendiamoci conto, perché purtroppo qui a Milano la dinamica è spaventosa come nel resto d'Italia, ci sono centri sociali che sono stati sgomberati, non rioccupati perché il collettivo si squagliava, ci sono centri sociali che si sono autosgomberati, sono stati sgomberati dal disagio di questa città e non sono più riusciti a ricomporsi. E quindi la cosa per noi è stata in realtà fare la variante lupo. Cioè per me personalmente ho iniziato a martellare dicendo o si fa conflitto o si fa la guerra fuori da qua o si viene ingoiati dal nulla. Cioè smettiamola di pensare che possiamo vivere tranquillamente le nostre vite ritirandoci in questi luoghi, perché ritirandosi poi ci si ritira, poi ci si ritira, poi si ritira, poi a un certo punto si scompare. Quindi o il concetto è vieni qua, ti organizzi, esci, fai macello e sopravvivi perché fai macello, oppure presto o tardi chiunque, anche il loncavallo, cioè viene assolutamente coperto da qualsiasi dinamica, perché quando arrivano 10 milioni di euro da investire su un'area o 30 milioni di euro che il Ministero degli Interni dovrebbe dare alla famiglia, cioè non siamo nel periodo dove c'è qualcuno che fa dei favori a qualcun altro, o il peso ideale dei movimenti fa sì che un politico abbia remore a fare delle mosse, non esiste. Quindi o ce lo si guadagna con le unghie qui denti o non funziona niente. e io non sono uno famoso per essere uno positivo, però sto vedendo dei cambiamenti rispetto al fatto che quando la gente viene messa davanti al fatto che o combatti o questo luogo che ti piace non ce l'avrai più, facciamo i cortei con i trampoli, che non è proprio impugnare i fucili, è un'altra roba, non facciamo gli scontri con la polizia, però significa che la gente inizia a metterci la sua vita di mezzo, che appunto, come diceva subito Dante Marcos, chiediamo la rivoluzione, non le scarpe vecchie, non i vestiti vecchi, chiediamo che tu cambi la tua vita, perché sennò questo luogo non esiste più. Tra 10 anni vedremo se avrà un senso. Qualcun altro? Allora, abbiamo un po' di qualcosa. No, ricordo solo l'ultima cosa: le foto sono in vendita e parte del ricavato va a ZAM. Questo è importantissimo. E quindi, se vi piacciono, spero di tenerle. Non so quanti giorni si possono tenere le foto. Quindi, anche nei prossimi giorni saranno esposte. Fin quando dato ne vale la pena. Dato che il prossimo weekend c'è un festival di editoria qui, le teniamo fino al prossimo weekend. Perfetto, fino al prossimo weekend sono qui, quindi se volete farle vedere anche per incentivare e sovvenzionare ZAM, chiamate amici, parenti, conoscenti, quello che volete, e fatele venire in questo bel posto, permettimelo di dirlo, che mi piace un bel po'. L'ho visto poco, ma mi piace un bel po'. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie. C'è la possibilità di mangiare adesso? Non so. Grazie.